prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Siamo all'ultimo appuntamento con la rubrica dedicata alla Caritas. In questo anno 2015 ci sarà la pausa natalizia, poi torneremo dopo l'11 di gennaio. Un tema che ha attraversato in lungo e in largo quest'anno che si sta chiudendo, ovviamente quello dei profughi e dei migranti. Allora ci torniamo sopra con alcune considerazioni, alcuni numeri che traggo dal fascicolo Ero straniero e mi avete accolto, pubblicato dalla Caritas di Padova, è disponibile sul sito caritaspadova.it. La situazione economica, il peso economico in positivo e negativo dei profughi e dei migranti è uno degli argomenti di dibattito. Di solito quando si vanno a toccare le tasche delle persone, soprattutto dei più ricchi, i problemi in qualche modo si risolvono. Allora diamo qualche numero effettivo documentato su queste situazioni. I tre paesi con maggior presenza di profughi, lo ricordiamo, sono il Libano, la Giordania e la Turchia. Ma maggiore presenza non vuol dire che noi ne abbiamo 100.000 e loro ne hanno 200.000, loro ne hanno milioni di profughi, quindi anche su questi numeri bisogna ancora una volta fare chiarezza. L'economia appunto di questi tre paesi, nonostante le difficoltà per l'accoglienza, hanno mantenuto tassi di crescita consistenti. La Banca Mondiale stima una crescita reale del PIL del Libano del 2,5%, mentre noi come Italia siamo appena a fatica sull'1%, proprio per l'aumento della domanda per servizi prodotti localmente in funzione dei profughi, domanda finanziata da risparmi propri, reddito da lavoro, le rimesse dall'estero e gli aiuti internazionali. L'ONU dà ogni anno 800 milioni di dollari al Libano per i rifugiati siriani e questo contribuisce all'1,3% del PIL del paese. Il Libano, come sapete, tra l'altro è un paese molto molto piccolo e ospita quasi altrettanta popolazione rispetto alla sua. La presenza dei profughi ha poi delle ricadute positive sul mercato del lavoro. Vediamo cosa ha fatto, l'ho anche dichiarato esplicitamente la Germania, aver accolto diciamo forza lavoro è certamente una scelta politica. I profughi siriani in Turchia, ad esempio, hanno rimpiazzato parte della manodopera locale. Molti turchi, tra l'altro, come sappiamo, sono emigrati proprio in Germania. Il tipo di lavoro occupato è quello informale, quello part-time, spostando molti lavoratori turchi nel settore formale, aumentando il salario medio. In Giordania i profughi siriani hanno aumentato l'offerta di lavoro in settori intensivi, manodopera non qualificata con bassa presenza di lavoratori giordani, cioè lavori che i residenti non fanno più, vengono affidati a questi profughi. Una delle obiezioni principali della presenza dei migranti e dei profughi è che per garantire un livello adeguato di servizi a loro occorra una spesa insostenibile per il paese che li ospita. L'esperienza della Turchia dice il contrario. Si forniscono ai profughi registrati l'accesso gratuito a servizi di istruzione sanitari, si gestiscono campi profughi con tutti i servizi di base. Per queste voci sono spesi 5,4 miliardi di euro. Sapete che poi la Turchia ha chiesto ulteriori aiuti all'Unione Europea, circa 3 miliardi. Nei paesi industrializzati il 15% dei posti lavoro nei settori ad alto sviluppo è occupato da una persona immigrata. C'è un immigrato ogni 6-7 lavoratori. Nei settori in declino ce n'è già uno ogni 4, quindi percentuale del 25%. In altre parole, dice il rapporto OCSE, gli immigrati tendono a occupare i posti di lavoro tendenzialmente rifiutati di chi è nato nei paesi occidentali e che tende a rifiutare. In ogni caso, su quei lavori gli immigrati pagano le tasse. Nei paesi industrializzati, sempre il rapporto OCSE, in media gli immigrati assorbono il 2% dei fondi per l'assistenza sociale, 2%, l'1,3% dei sussidi di disoccupazione, lo 0,8% delle pensioni. Fondazione Moressa, che si occupa proprio di questi temi per statuto e per natura, ci ricorda che in Italia gli immigrati hanno pagato nel 2014 6,8 miliardi di IRPEF su redditi dichiarati per 45 miliardi di euro, costo rapporto costo-beneficio largamente positivo. Le tasse pagate dagli stranieri, tra fisco, contributi previdenziali, superano i benefici che essi ricevono dal sistema welfare italiano, quindi la sanità, la scuola, i servizi sociali, la casa, la giustizia, la sicurezza, 4 miliardi di tasse. La ricchezza prodotta dalle persone straniere occupate in Italia è sui 123 miliardi, pari a quasi il 9% del PIL. I lavoratori immigrati versano il 5% dei contributi previdenziali complessivi, pari a circa 10 miliardi di euro. E anche questi sono dati della Fondazione Moressa. Certo, non è tutto rose e fiori, ovviamente, lo sappiamo, l'esperienza di questi mesi, in particolare di una parte del 2015, anche nel dibattito è stata piuttosto accesa, in alcuni momenti anche dolorosa, ma le persone che si spostano ci sono, perché dal Medio Oriente, dal Nord Africa, o via terra o via mare, come sappiamo, anche se la notizia dopo gli attentati di Parigi è un po' sparita, è andata così nel dimenticatoio dei notiziari e anche del nostro dibattito personale, individuale e collettivo, le persone che si spostano ci sono, o magari non riescono a spostarsi perché sono bloccate dalle normative che l'Europa non riesce o non vuole adeguare, ad esempio il famoso regolamento di Dublino. Su questo c'è molto dibattito, ovviamente noi abbiamo preso alcuni numeri per dare ulteriori elementi di giudizio. Ovviamente torneremo a parlarne nel corso di tutto l'anno, di tutta la stagione, riprendendo il nostro appuntamento dopo le festività natalizie. Ricordo che questi dati che vi ho citato sono presi dal fascicolo Ero straniero e mi avete accolto, pubblicato sul sito caritaspadova.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.